prima. Tremendo l'altro. Ma tu prima l'ha comprata, meno male che ce l'ha quella, se no ui, non so come avremmo fatto. Vabbè, questi sono radio che devono stare accese, bisogna usarle, da così è. Sì, che cosa, bisogna usarle, perché poi quando le spegni le tieni per accendere hanno sempre qualche problema, poi bisogna usarle, poi il problema qual è, io? Perché tendo sempre a non volerle dare qua, perché io per esempio ce li ho tenuti, se non vanno benissimo, questa per esempio questa non posso garantire niente se non la uso un po', però quella che ho il 440 adesso che ho messo a posto, la avevo già un anno, sembra perfetta, proprio non gli puoi dire niente, è proprio bella quella lì, però magari la dai, uno lo usa 20 giorni e poi inizia a dare problemi, perché magari inizia qualche condensatore, qualche cosa, qualche saldatura fredda, cioè, e allora ti tocca rimettergli in mano, ma io non ne ho più voglia, non, io poi diventa complicata la cosa, diventa complicata, perché queste radio qua magari vanno bene e poi tutto di colpo inizia a dare qualche difettuccio, che si chiamano difetti di vecchiaia, non sono veri e propri difetti, però magari non va più in trasmissione, oppure inizia a gracchiare, oppure qua, oppure cosa fai? Non è che puoi fare altro, e devi rimettergli in mano e magari per trovare quel difetto ci sei giorni, e poi magari ti rendi conto che era una fesseria, capito? Questo era, magari era un falso contatto, ma vai e trovalo. Ma è vero, ma te la vendi, è logico, se quello gli va male, subito la prima cosa che ha fatto la riporta, dagli una controllata e così. No, poi ho preso l'altra volta, qualche, forse un anno fa, un Gemitronic, un apparato valvolato che stavano dando insieme all'aspirapolvere, l'ho visto su internet, su Facebook, l'ho fatto un'aperta e me l'ha dato. L'ho provato, all'inizio facciamo un sacco di scariche, allora l'ho smontato, ho pulito tutto, una bella soffiata, un po' di spray per contatti, ho ripiazzato tutto, un po' di scariche di accettamento e adesso sta andando, è un valvolare, penso che sia anni 70, non lo so, un Gemitronic, che cos'è, GTX 5000, lo conosci? No, non mi dice niente, sai perché? Perché io ho poca memoria, quindi tu mi dici a me tutte le sigle che dico tutti, io boh, magari le ho anche riparate, però no. Però sulle valvole io non ho molta dimestichezza, ho costruito un amplificatore per i 50 MHz, era finito, era solo la frutta di temperatura, ma mi ho preso una sberla di corrente, l'ho messo via e non ne ho più usato, sai cosa vuol dire? Più usato, non ne ho più voluto sapere, non ne metto mano io, sulle valvole non ho molta dimestichezza, non ho molta, eppure c'è il mio amplificatore valvolare, che quello lì gli metto mano perché quando ha problemi gli devo mettere mano, però non mi piacciono le valvole. Ma l'amplificatore è sempre per lineare o per casa? Sì, per casa, vabbè, per casa io sono audiofilo, quindi ho tutto a valvole, preamplificatori, eccetera, eccetera. Però con questo parliamo di amplificatore lineare fatto da Gaetano, è un amplificatore che tira fuori 2 kW e mezzo, pane HF però, ne ho due, ne ho tre, ne ho uno per le VHF, sempre con una 13, e poi un altro che deve arrivare per i 50 MHz. Insomma, che tu già ne hai roba, a quanto ho capito. Sì, se poi tu un giorno passi sotto casa vedi anche il traliccio con le antenne che sono sopra, quindi ti rendi conto che qualcosuccia c'è. Le passioni sono passioni. No, io sto usando questa antenna autocostruita, non è sul tetto purtroppo, però ma si difende bene, dai, ho fatto anche qualche piccolo DX, mi permette di collegarmi intanto e di divertirmi un po' là, nei spazi di tempo libero. Ascolta, dov'è la tua zona? Però sta arrivando benissimo, la radio è ottimissima, e il segnale è forte, 9-10, dove sei che stai, dov'è la tua zona? Io sono proprio, guarda, dietro la chiesa del Sacro Cuore, proprio la parte più bassa che c'è, vicino alle ferrovie, proprio così. E l'antenna però parte, diciamo, dalla finestra e arriva, diciamo, sotto il tetto, sotto il cornicione, là. Diciamo che cammina parallela al muro, di una distanza di una cinquantina di centimetri, 60 centimetri. Io capito, vabbè, ma stai arrivando benissimo, poi per un tempo magari uno può, ma oggi per chi è rimasto in 27 va più che bene, perché c'è per due chiacchiere va più che bene, Sassari secondo me dintorni lo copri benissimo, qua arrivi benissimo, fortissimo, quindi non c'è nessun problema. Va bene, dai, io ti saluto, se mi vanno a sciacquata mi cambio e vado a mangiare una cosa fuori, perché c'è talmente caldo e non ho voglia di arrivare a casa. Dai, ti saluto e ci sentiamo alle prossime. Mi ha fatto piacere, due chiacchiere e dei controlli. E magari ci sentiamo magari più tardi, dai, dai. Ti auguro una buona cena quando la farai. Faticamente il giusto, dai, facciami piacere comunque fare due chiacchiere con te. Specialmente una persona che se ne intende in queste cose. Un abbraccio ancora e buona carica, buon tutto alle prossime, quando coinciderà. Ok, ciao. D'accordo, grazie a te e ci sentiamo. Ciao e buona serata. Ciao, ciao, vabbè. Attenzione, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Beh, sono arrivato adesso stesso, sono appena salito, l'ho sentita anche fischiare. No, ti sento male, Riccardi, che radio stai usando? La solita, la solita, sto usando. Sta andando sempre male? Un sacco di rumore di fondo, poi la voce tua è cupa, ma cos'è, 43, l'anno 43? Sì, quello è, quello, non lo so. Ho lasciato le stesse regolazioni, non ho toccato niente, Roberto. Non so cosa posso fare, sto parlando a un braccio dal microfono e non so cosa si può fare. Ma perché si sente questo rumore di vento? Ma che cos'è? L'alimentatore, mi sa che lo cambio. Ah, un rumore assurdo, mi proprio ti copre la modulazione. Aspetta un attimo che lo cambio, lo so che è una rottura questo alimentatore un po' qualche volta. E io? Chi è? Io. Chi sei? Indovina, la prima roba non c'è te. Oh, vabbè, sono tornato, così va meglio? Sì, c'è meno rumore adesso. Tappa, tappa, ho sentito un bambino. Ciao. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera, Gianino Pierrum. Buonasera. Buonasera, buonasera, avanti Roberto. Ria, ciao Gianni, ben sentito anche a te. Scusa Giacomo, maleducato, non ti sono stato. Buonasera. Ciao, ciao, buonasera a tutti, dai. Ben sentito di qua, ti vado a prendermi gli occhiali che me li sono dimenticati. Ria, e il carrier a quanto ce l'hai? Come ha detto Claudio, a Santiago 5. Vabbè, ma adesso sei in che stazione sei, quella nell'albero o nell'altro? Nella Tree House CB, sopra. Ehi, l'altra quindi c'è troppo caldo o nell'altra? C'è fresco, poi praticamente lì rimbomba tutto il suono, lì ci vado più o meno qualche volta. Quando parlo sono sotto, ci vado poche volte, mi piace più stare qua. Qualche volta ci vado dopo che devo sbaraccare e devo spegnere qua, tipo che mezzanotte non voglio sbaraccare troppo tardi da qua, mi inizia a portare tutto giù e parlo da dentro. Ma chi c'è? Tuo padre vicino? No, Babbo non c'è, sta parlando con Gianni. Adesso arriva, gli stavo dicendo una cosa, mi sa che sta arrivando. Ehi, l'ho vista, sono passato, era per Daniel della stasera, sono passato quello dove avete preso con l'altro giocattolino, Ricca. Ehi, hai trovato qualcosa? Ma mi ha rotto le scatole la tipa, infatti maleducata, ha detto vai, ha fatto un giro. C'era quella radio della Grunding, la versione piccolina di quella che ho io, però molto simile, diciamo la versione povera. Ha detto quanto costa, manca l'antenna, è un po' messa a maluccio, tutto a sporco. Ha detto quanto costa? 30 euro, ma sta scherzando. Gli ha detto guarda, se me la dà 20 euro gliela prendo, non aspetti che chiedo. Poi c'era l'antenna, un'antenna magnetica, non so se l'hai vista, di baracchino. Gli ha fatto guarda, se me la dà tutti e due, 25 euro gliela prendo tutti e due, aspetti un attimo che chiedo. È andata al tizio, un ragazzo che secondo lei se ne intendeva, allora radio 25 euro e l'antenna 15, ha fatto lasci stare, se me la fa provare ci faccio un pensierino. No, non ho voglia adesso di prendere il filetto, poi ci sono roba usata, visto è piaciuto, sì, ma io non posso prendere una scatola vuota per 25 euro. E adesso non ho voglia di prendermi il cavo, ho detto vabbè, rimane lì quella roba. Lo so, c'è quel ragazzo che ci fa vedere che sa molto, poi non ne sa niente, perché lui è un che se ne intende un pochino più di me, però anche lei è un bel maleducata. Anche a Babbo un'altra volta ha fatto come te che l'ha mandata a Nella e poi meno male che questa volta dovevi prendere con le pinze, perché questa volta era tranquilla. Ah, c'è quanta roba ho comprato, ma anche roba di valore di lì, di tutti i generi. Molte volte tutta lecchina, tutta qua, tutta là, quando avevo preso un letto antico in ferro e mancavano i supporti. No, ma ci devono essere, se no lo prende così lì. No, io voglio i supporti. Se lei non mi dà i supporti non ne prende. Ma guardi qua, là, già le troviamo. Detto, guardi, quando ci sono i supporti, questo è il mio numero di telefono, mi chiama e io gliela prendo. Poi dopo il giorno dopo mi ha chiamato, sì, li abbiamo trovati. Venga a prenderlo. Cappa, lo so, anche lì c'è un pochino di disordine, è un po' combinato, devi frugare per trovare qualcosa di interessante. Lo so, devo passare da quell'altro amico mio che si chiama, quello che c'è giù scendendo dopo Bricco, ma come si chiama, gli affari tuoi, di lì c'è un amico mio, quello almeno è tutta ordinata, siamo amici, gentilissimo, anche la moglie, le commesse ci sono in gamba. Questa è una caffona maleducata che non è uguale, come il fratello che è l'altro che c'ha l'altro negozio. Per dire, l'altro fratello, l'altro napoletano è più tranquillo rispetto a lei, no? Non è come lei è un po' strana, già guardandola. Siamo arrivati e stava già giocando tipo Falco da fuori. Ma poi certe volte invece lecchina, a me non mi piacciono le doppie facce. Ok Gianni, avanti a te se ci sei. Doppio rumbo. Dove stai dicendo, Robert? Che posso stare dicendo? Che hanno fatto queste cose? Un negozio che c'è di fronte alla piazzetta, quasi nuovo. Quello che vende roba seconda mano. Quello lì, se ti interessa c'è un'antenna veicolare di quelle a coso, magnetiche, 15 euro. Non so quanto costi nuova, è nuova però, in buone condizioni. Che antenna è? Non la conosco, non è tanto alta, tutta nera con una carica sotto. Ma è un'antenna CB o che cosa? No, appena CB, c'è il cavo, ci saranno boom, 3 metri di cavo col PL già innestato. Cosa? 15 euro mi ha detto lì, perché io ho visto una radio antica, dai, antica relativamente, anni 70, anni 80, dai, una Grunding, bellina, anche se manca l'antenna, un po' rotta, però a me piacciono quel genere di radio perché ne ho altre due. E ho fatto quanto costa? 30 euro, ho detto, ma sta scherzando, ho detto, lasci stare, ho detto, gli posso dare massimo 20 euro, no, e ho detto, guarda, con l'antenna gli do altri 5 euro, 25, aspetti un attimo che chiede, ed è venuto un ragazzo, ha parlato con questo ragazzo sapiente, no, quella è un'antenna CB, la vendiamo 15, la radio 25, e ha fatto, era un mezzo indeciso, ho detto, o sa come le pensi, ho detto, guarda, mi dà un cavo, la proviamo, no, questa è vista e piaciuta, ho detto, ma mi è piaciuta cosa, mi sto dando 25 euro con una scatola vuota, e poi, no, l'ha provata il ragazzo e funziona, allora, se lei me la fa provare io gliela prendo, se no non gliela prendo, non ho voglia di alzarmi, te vai a pigliare la luce. Oh, Roberto. Dimmi, Erika. Yeah. vuole concordare, perché quando ho preso quell'accordatore voleva vendermi in blocco quei due baracchini con l'accordatore. E tu li hai visto quei due baracchini, poco erano messi male? Meno male ho preso solo l'accordatore. Non ho capito niente, perché avete parlato in due. Cosa hai detto, Riccardo? Ripeti, scusa un attimo già. Che stavo dicendo, per caso li hai visti? Io quando ho preso questo accordatore, praticamente mi voleva vendere anche quei due baracchini che ci sono. Per caso li hai visti? Che due rottami si vedevano modificati. Mi voleva vendere tutto completo, ma non sono riuscita a trattare e mi ha venduto solo questo. Perché ti hai preso un accordatore? No, ho visto che c'è un tenco, è abbastanza buono, almeno esteticamente non è messo male. Non l'ho visto. Comunque, come ho detto, li hai visti quei due baracchini? Quello, uno è un Intec e uno è un Midland. No, non li ho visti, non c'erano. C'era soltanto questo tenco nero, tutto nero, diciamo, non so quanto costava. Non era messo male. E che accordatore ti sei preso, Riccardo? Un accordatore così, tanto per perché mi piaceva, uno ZG. Sì, ma che modello? Aspetta che ce l'ho giù, devo controllare. Un attimo, te lo dico, non ce l'ho qua. Così ti faccio sapere qual è. Ah, non ti preoccupare, con calma, dai. Vai Gianni, doppio rullo. C'è qualcuno sul 10 qua? Gianni, ci sei ancora? Sì, un attimo che siamo al telefono. Scusa Gianni. Oh, Robè. Io mi ricordo. Ma alla fine che cosa hai visto? Questo tenco. Ma il grooming che l'hai visto? Ho visto che era bellino, vabbè, da sistemare. Quello, forse quello che stavi dicendo tu, quello con le fiancate in legno. Fiancate in legno non l'ho visto, ma grande o piccolo? Piccolino, grande, cosa ti posso dire? Quanto un no. Due baracchini affiancati in altezza e in lunghezza. Ma quello che era chiaro davanti? Boh, non lo so, che aveva dei bordi in legno con scritto Grundig. Boh, ne ho visto un paio. L'unica interessante era quella nera, il boh. Ho capito. Oh, comunque, lo sai, anche oggi, girando nell'orto, le avventure dell'orto, ho trovato un'antenna, la base di un'antenna CTA International. Dove? Nel mio orto. Hai trovato l'antenna CTA? Sì, ho trovato la base dell'antenna CTA International. Via, comunque è una maleducata, quella lì, diciamo, ci vado qualche altra volta perché magari puoi trovare qualcosa di interessante, però ce la trovo da un'altra parte, che costa di più vado dall'altra parte perché è una maleducata. Te l'ho detto, vabbè, già non so com'è, devi prenderla con le pinze a quella. La conosco da tanti anni, lo so da quanti anni la conosco. È una lecchina, certe volte fa tutta la toga, gentile, quando c'è poca gente, se ne sta incazzando troppo. Vabbè, potrei che non magari la voglia, se non voglia di alzare, molta lo porta, perché tutte le volte che ci ho andato non ne ho trovato di apparati CB. State parlando in due, non si comprende nulla. Cosa hai detto già? Ho detto che se non ha voglia di alzarsi vuol dire che non ha voglia di vendere, che non ci sa fare col cliente. Io lo so, è un'imbecillotta, dai, lasciamo perdere. Ma sai quanti soldi gli ho lasciato a quella lì? No, ma proprio un imbecille. Quanto costa l'antenna magnetica? Quanto si paga nuova? Già. Dipende che antenna compri, non so quanto sia alta, non so niente. Allora la base l'ho pagata a 20 euro io, di quelle grandi, senza nulla. Solo la calamita e la gomma che si mette sopra. E l'ho presa da Fusano, nuova. E poi l'antenna, secondo che antenna è, può costare 55, se di quelle da 2 metri, può costare 60. Sono quelli i prezzi, dai, la Turbo 2001 per dire costa solo 60 di euro. Vabbè, ma la Turbo 2001 stiamo già parlando di un'antenna importante. Io parlo una di queste normalissime fruste, saranno 60 cm con una molla sotto e la base magnetica. Quanto la paghi nuova? Non lo so io, ma piccola è, 60 cm è piccola, non è che c'è una chissà che cosa. Ma non lo so, non ne ho l'idea. 60 cm posso paragonarla a una, come si dice, una Minox costa sulle 35-40 euro. Quindi la stai pagando a metà prezzo, dai, più o meno. Un'antenna normalissima, niente di più. Ok, vai, uno che interessa per il campo o qualcosa del genere, a poco prezzo vuole spendere. No, io se me l'avevo a 5 euro l'avrei presa, me l'avrei messa dove c'ho la radio, il sintonizzatore, nell'altra stanza per attaccare al sintonizzatore per prendere un po' di qualcosa, è meglio di mettere quelle a filo che ti danno in dotazione. Ok, Riccardo, avanti a te. Bianco Bernè, arrivo subito, scusate, 5 minuti. Andiamo a vedere robe come gli stazionali, se l'hanno tagliata, se l'hanno rubinata, capito? A volte la taglia non riescono più averla con le stazionali giuste se la vengono. Seppure no, non l'ho vista, diciamo, non la conosco neanche. Poi di antenne veicolari non è che me ne intendo, le ho viste qualcuno, ma non ho nessuna esperienza. Infatti ho pensato alla macchina tua, ho detto tu che c'hai la macchina scura, stavi cercando un'antenna nera, ho detto passa a vedertela domani, prova di offrirgli 10 euro. Adesso passa a vedere, la controllo, si ma caricata. No, c'ha la molla in vista. Ma sarà qualche antenna di cosa? Di VHF? No, CB, almeno così ha detto quello là, CB con ragazzo, ha detto no, siccome ci sono un bel di baracchini, almeno, io ne ho visto uno però, e mi ha detto Riccardino che ce n'hanno altri, forse li hanno venduti, deve essere di qualche CB, c'era anche l'accordatore, penso sia di un CB qualcuno che ha dato via. Sì, anche io una volta gliel'ho detto a KP2, non ho preso questo apparato, c'era un microfono amplificato, ma era, cazzo, c'aveva la vite in mezzo, era bucato, era brutto, non mi piaceva, io sono fatto così, se lo vedo che sei di nuovo, se sono i copper che appena raffiato cosa me lo faccio io. Ma se un altro va trattato, se l'ha comprato KP2, quel microfono praticamente gli ha tolto la vite, gli ha tappato il buco, l'ha rifatto, l'ha sbucciato, dice che va una bomba, dice. Ma che microfono è? Amplificato, non lo so, e praticamente aveva la portata rossa, mi pare che c'aveva il vite della rossa. Ma l'ha preso di lì questo negozio che dico io? Sì, l'ho visto io, glielo ho detto. E lui va, adesso ci passa domani, passa che se l'ha comprato. A Capri gli ho fatto prendere a Portobello, che quello ha fatto un affare, un Alicraft ricevitore, e dice che funziona bene, me l'ha fatto sentire, mi ha mandato il video, funzionava veramente bene, non era in condizioni eccesse, però era completo, non so, forse gli hanno dato una pulizia, una cosa del genere, ho detto prendilo a te che sei appassionato. Ma cosa c'è, ma ricevitore e trasmettitore? No, solo il ricevitore, ma grandetto, non era piccolino, più grande di un 440, una volta e mezzo del 440 è un po' più alto. E quanto costava? 50 euro. È un affare. Sì, era un affare, perché è anche un buon ricevitore, c'è una bella sintonia pure. Beh, se funziona bene è un affare. Ma sono sempre cose che poi sono vintage, poi a lui gli ho dato l'altro, quello che c'avevo io, che poi tra l'altro era suo in origine, abbiamo fatto degli scambi, altre cose, gli ho dato anche un Rosmetro che avevo nuovo della ZG, quello più basso del TM1000, però nuovo fiammante. Vabbè, dai, non vanno bene, io ce l'ho. Però di quelli grandi, adesso non mi ricordo come si chiamano, non è niente, è l'altro. La KP1000 tu c'hai, sono uguali tanto più o meno, sono uno prima dell'altro, ma sono identici. Sì, la KP1000, non mi vedo adesso, sì. Hanno cambiato qualche fesseria per questione di mercato, di marketing, quando fanno un coso, ma se tu li apri sono identici. TM1000 c'ha il commutatore dell'antenna, che è ridicolo, c'ha un interruttore, cioè vedete gli interruttori quelli cagati, in plastica, c'è l'antenna 1 e l'antenna 2, però per il resto sono identici. No, il mio commutatore dell'antenna non è A, c'ha Rosmetro, Vatmetro e accordatore. No, lo conosco bene a KP1000, ti sto dicendo, sono identici come circuitazione, l'hanno fatto un po' il tuo un pochettino più basso e un po' forse appena più largo, e non hanno messo l'accordatore, il commutatore dell'antenna, c'ha un trattino rosso in più il mio, ma sono identici, non cambia niente, c'ha la scala da, sino a loro dicono 1 kW, se gli dai 300-400 watt lo sciulli quella pari. Non lo so, comunque 1 kW ci scrive. Anche nel mio c'è scritto 1 kW, ma se lo vedi dentro l'aperto ti mette le mani in testa già, come fa a dare 1 kW a una cosa del genere con un cavettino fino senza niente, allora, solo il colpo di portante lo scioglie, esplode. Sì, vabbè, tanto io non ne ho di queste, poi non sono così, non pretendo così tanto, questa potenza non ne ho, poi mi basta la massimo 100 watt sul gas. Certo. No, ma te lo dico perché sono dei prodotti che non c'è niente, le resistenze, la componentistica e cose sono molto, molto economiche. Vabbè, un apparecchio che costa pochissimo, non puoi pretendere per quel prezzo, è di grande diffusione e hanno riempito tutto il mondo. Il mio c'è l'80 anni e funziona sempre bene, è abbastanza perfetto, dai. L'unica cosa che c'ha è che magari tu lo metti in 5 watt e ti scegli a sentire fino a 10, no, poi lo metti a 100 e te ne scegli a livello. Vabbè, non sono, quegli strumenti sono abbastanza, hanno una tolleranza più o meno del 10%, non sono strumenti precisi, però ti danno già un'indicazione abbastanza, abbastanza credibile. Certo, se c'hai 10 watt magari te ne segna 13, 14, 12, se ne hai 4 te ne segna 6, c'è sempre un pochettino di cosa. Perché poi non è neanche l'errore, non è neanche lineare, perché dici c'è un 10% di errore e va bene, per dire se mi segna 4 watt, 40 watt ne stanno uscendo 30, se invece me ne segnano 100 me ne stanno segnando 60, cioè c'è il contrario, voglio dire, se ce ne sono 60 te ne segna 100, e quello non è un errore lineare come altri strumenti più precisi, però diciamo almeno per indicarti le stazioni, io ce l'ho sempre attaccato, così quando schiaccio sto più o meno capendo se tutto sta andando bene, mi guarda in contemporanea stazionarie e potenza d'uscita. E beh, non lo usi tu? Sì, sì che lo uso, però se tu vuoi fare un raffronto con l'osmetro del K e fai delle prove con quello lì, usi, fai la cordatura, che siccome c'ha la funzione, il K c'ha sullo smitter e commuti, ti può dare la potenza, la LC o il stazionale, il ROS, tu molte volte quando stai accordando arrivi a 0, 0 si fa per dire perché 0 non esiste, a 1,1, 1,2 diciamo basso di ROS, tu vedi che il K male ti sta segnando 1,5, poi lo tocchi appena appena, il K va a 0, proprio quasi a 1, e quello lì sta segnando 1,3, cioè il contrario, devi trovare una via di mezzo per avere il giusto valore, infatti non è molto affidabile a livello di coso, se tu lo confronti con uno strumento un po' più preciso, c'ha sempre un po' di errore. No, io questo qua con il K l'ho usato, e mi davo 50 watt, e segnava bene. Come riceviamo? Non apparecchio riceviamo a... E vabbè, comunque, si sa che non sono molto fini, ma già vanno bene, fanno stazione anche, sono illuminati, sono bene. Beh, non so neanche se si è illuminato quello mio, ci credi, non l'ho manco visto perché l'ho preso, l'ho lavato un pacchetto di roba, c'erano baracchini, microfoni, è nuovo, ce l'ho già da tanti anni questo, insieme a un MB più 5, nuovo, poi mi hanno dato il telefono. Il cappi ci si. Prega! C'è qualcuno? Hola! Gianni, sì, c'è qualcuno? Attenzione al canale 10, chi vuole entrare, eccola, buonasera. Hola. Oh, Robè, ci sei? Eia. Lappa, sono tornato. Gianni, tu ci sei? Oh, Gianni, l'ho chiamato ma non ha risposto. Ha già cenato, Riccardo? No, ancora no. Non ho cenato, tra un po' vado. No, non ho mangiato niente ancora. Sì, no, io ho già mangiato 2 pizzette al volo e altre cose. Ebbene, non c'è nessuno oggi, tutti morti. Ma ieri notte poi sono rientrato e non c'era nessuno, infatti me ne sono andato. Ma a che ora sei entrato? Io con Tonino stavo parlando fino alle 23 e passa. Allora io forse ero tu più o meno quella, ma prima verso le 10:30 ce l'avevo. Boh, forse stavo mangiando, me la sono presa con calma visto che non c'era nessuno, ho fatto con calma la cena. Sì, no, sono entrato un attimino, ho chiamato, cioè non è che ne avevo tanta voglia, ero molto stanco ieri. Sì, avanti. Chi va? Fabritus? Sì, ciao Robè. Provando quell'apparecchio che avevo già provato, comunque. Ciao Fabrizio. Ciao Riccardino. Ma il 44 è Fabrizio? Sì, il 44 che ho terminato, l'ho chiuso oggi, ho fatto una mezz'oretta, una chiacchierata, adesso sono uscito a mangiarmi una cosa fuori, sono rientrato e lo sto provando. Sembra che stia andando bene adesso. Sì, anche prima, però avevo un rientro strano, ho fatto un... isolato, vabbè. E quindi lo sto provando. Microfono 60. Il 60, secondo te deve abbassare o sollevare? Non è altissimo, ma potrebbe andare anche così. Se riesce a sollevare un pochettino forse è meglio, ma sta andando bene. Allora, guarda se è troppo in questa maniera. Prova a parlare. Guarda un attimino se è troppo, lontanissimo, il microfono sarà 50 centimetri. Ma diciamo potrebbe andare così, sento un po' leggera l'amplificazione della stanza, però già può andare anche così. Vabbè, quello del genere, quello era normale, però già va bene. Niente, la sto provando, dai, sembra che vada bene. Sì, ho fatto così, oggi ti giro un video, anche esteticamente è molto bella. Tu sei venuto masso questo passaggio, che cosa hai fatto? Cos'è che mi hai detto, Riccardo? Hai mancato la radio? No, scusa, Fabri, adesso ti dico, poi ho sentito, mi ha detto Roberto, avanti Riccardo, forse era un problema mio perché l'ho sentito basso. Che radio stai usando, Riccardo? Il Midland. Con che microfono? Con l'80. L'amplificato. Quanto ti arriva il segnale, Riccardo, Fabrizio? Vieni avanti, Fabrizio, dimmi quanto sta arrivando al tuo QTH. 9,20. Più o meno come a me un peluzzino più di 9,20, ma siamo abbastanza simili. Tu stai usando la mantova in ricezione, così è? No, la tela, 9,21, vabbè, 9,20, il segnale, e poi non è che puoi vedere il pelino, dipende anche dallo smitter come è fatto sarà. Questo è l'apparato e se guardo col qualsiasi apparecchio che tu guardi con qualcosa scosta sempre. E su amplificatissimo Riccardo da 800. Però non è distorto, dai, l'abbiamo regolato più o meno. Cerca il Machigain è quasi a 1, poco più su di 1. Sì, è fortissimo. Ah, no, già sta andando bene. Poco fa quando è entrato era un macello di rumori, il vento, le ventoline, non si capiva niente. Infatti ho detto tu di tutto, allontanati, perché era un rumore di fondo allucinante. Perché ti porti dietro un po' tutto, quello è normale. Anche se secondo me ci sarebbe meglio abbinare un altro tipo di microfono, tipo quello che stai utilizzando tu, secondo me si adatta di più con quella radio. Ma io ho un altro MC60, ma lo dovrei mettere a posto, ha qualche problemino. Non ho voglia, sono da mettere quando ho fatto l'altro qua, sono un sacco di settimane attaccato a questi apparecchi. Adesso sono finiti, non ho di più guardi. Conservateli nel periodo freddo, invernale, per passare la serata. Adesso ci sono altri divertimenti più importanti, c'è mare e altre cose. Esteticamente è tornato più o meno come colpione, questi dati ci hanno fatto di Riccardino. No, ho visto come hai fatto quello Riccardo, era fiammante. Li ho spruzzati insieme, questi cofani con quello di Riccardino li ho spruzzati insieme, dai. E cosa, il rosso con cosa le fai, col pennarello? No, il rosso con la vernice, con sempre vernice, no, la verità, questa volta l'ho fatto con lo smalto. Lo smalto quello delle unghie, dice, ma c'è un pennellino sottile, devi utilizzare. Li metti sopra e poi gli pulisci la parte in eccedenza e lui se ne va all'interno del foro, un po' come quando nella Vespa, no? Che gli devi fare con i cosi rossi. Ah, lo stesso principio della Vespa, delle marce, quando devi indicare fare il coso, gli dà una scortatina e poi lo pulisci. Lo metti dentro, poi glielo pulisci e gli rimane solamente internamente, piano piano, lo pulisci più intorno, stanno attento, se si può fare anche quello interno e gli rimane perfettamente la smaltatura dentro, torna a posto, il pezzettino 4,30 è così. E è uscito bello, mi piace, molto, molto ordinato, poi sembra diciamo in ottime condizioni, c'è Renato l'apparecchio. Sì, poi smonta tutti i pezzi, li metto in acqua calda, cioè che abbasso, li metto in acqua calda e poi li faccio con lo spazzolino e Saint-Clair e tornano nuovi. Io lo sai cosa ho comprato la Lidl, quella ultrasuoni, l'hai mai provato tu? Quello va benissimo. Ma sai come ti pulisce le cose quello? Micidiale, anche le monete, le cose, gli orologi, tu lo metti in bagno se c'è roba in argento, ci metti l'acqua dentro, lo attacchi 90 secondi, ma cazzo te li fa a specchi. Lo so, quelli sono gli ultrasuoni, io li ho conosciuti tantissimi anni fa al lavoro. Perché era barato lo chimico, lo usava, quando devi pulire il carburatore, lo voglio, e portavi lì, se c'è qualcosa, facevano il bagno e uscivano pulite. Sì, poi nei passaggi dove non riesce ad arrivare col coro, perché il carburatore noi l'abbiamo sempre pulito, un pannello di benzina a magno e poi soffiavi con l'aria, ma quelli con questi, e costava anche poco, la vasca, arrivava una vaschettina, c'è un contenitore di alluminio, mi pare, non ti voglio dire fesserie, ma forse neanche 30 euro costa. Lo so, non costano, lo so, ci sono belli, li ho visti qua 100 euro, quindi anche vasche abbastanza grandi, prima costava una barca di soldi. Meglio vai. Avanti, ricordi. Sì, non ho capito questa cosa di ultrasuoni. Per la pulizia dei materiali metallici, anche la plastica, dove c'è un po' di sporcizia, utilizza delle radiazioni ultrasoniche, si fa un bagno ultrasonico, i dentisti li usano quando c'è il tartaro nei denti per pulirlo, te lo tirano via, c'hanno una forza, non lo devi lasciare troppo, perché sennò secondo l'oggetto che è, ti toglie anche la nichelatura o la doratura se lo lasci troppo. Devi rispettare i tempi, c'è un timer dentro, dunque imposti i tempi, 90 secondi, anche 180, dipende dalla sporcizia, ma meglio ripeterlo se è sporco molto un paio di volte, ma le monete te le fa a spicchi. Ho capito, sì, e quindi non bisogna lasciarlo troppo, perché sennò ti togli anche quello che non deve togliere, ho capito. Diciamo, se sono cose delicate bisogna stare attenti. Se è materiale puro, per dire, se c'è un oggetto in oro puro non c'è problema, ma se è coso, dorato, bisogna stare molto attenti, perché questi campi elettrici che si formano all'interno possono essere pericolosi. È il contrario di quando ti fanno la cromatura, la nichelatura, funziona al contrario, all'inverso. Ho capito. Dai, avanti di nuovo, Fabrizio. Venga avanti. Però ricordi, io non funzioni nemmeno, gliela avrei dato di amplificazione. Gliel'avresti data, sta dicendo Fabri? Di meno. E un puntino in meno, no, vabbè. Ma io l'ho controllato, gli ho detto di non arrivare al limite, lui stava parlando ieri molto vicino al microfono, stava sporcandosi la modulazione, adesso ha imparato a mettersi un po' più lontano senza strillare, ed è entro i limiti, diciamo, non è, teoricamente non è la salottiera, ma visto che qua sono tutti a manetta, lui si è adeguato più o meno agli altri, però senza andare in saturazione. Io, nei limiti miei visivi, può ancora andare. Comunque, scusate se poi me dico qualcosa, Roberto, io non urlo mai. Cosa hai detto, Riccardo? Stavo dicendo che io non urlo mai. Stavo dicendo io non ho? Io non urlo mai, non urlo mai. Però tu lo sai che c'hai il problemino, che tu molte volte non sei direzionato verso il microfono, ti metti a parlare come che stai parlando con le persone tu. Cioè, se stai facendo un discorso nel microfono, quando parli in radio, deve essere direzionato la bocca nella direzione del microfono, perché è abbastanza direttivo. Se tu ti metti a parlare al microfono con la bocca girata dall'altra parte, cambi completamente i livelli di coso, di emissione della radio. Te l'ho detto tante volte, ti trovi in una posizione confortevole, direzionata verso il microfono, e vedi che rimangono sempre quelle i valori, perché molte volte io notavo ti avvicinavi, ti mettevi la mano davanti alla bocca, non stai parlando con una persona viva. Quando sei alla radio deve prendere le tue modulazioni, le tue tonalità, devono arrivare al microfono che la trasmette alla radio, e di lì poi le fa uscire, però il microfono c'ha dei limiti, per cui devi cercare di rispettarli questi limiti. Adesso vedo che piano piano stai imparando a rispettare queste regole, per cui va benissimo. Dai, avanti di nuovo, Fabrizio. Sì, Riccardo, così. L'ho spostata la stazione completamente dentro. Dipende, adesso sto parlando dalla Tree House CB, dalla casetta, e quando voglio stare dentro al caldo, o al fresco, che c'è troppo caldo fuori, visto che col bentato mi porto questo midband dentro, e così parlo da lì, mi allungo il cavo, arriva fino a dentro dalla finestra e parlo da dentro. Ho capito, già me l'hai già detto. Va bene, allora. Vediamo un attimo cosa c'è qua, cosa c'è in radio, vediamo un attimino se c'è qualcosa da collegare. Avanti, Roberto. A quanto lo pari tu lo smitter? Perché quello del 44 è diverso da quello del 14, almeno in servizio si diceva uno è a 150 e l'altro a 300, per avere un S9 il 440 era a 150, mentre il coso, scusa, al contrario, 300 per avere un S9, mentre il 140 è al contrario, 150. E quello dice il manuale servizio, non lo so, se non me li ricordo. Il 440 l'ho fatto oggi, Santiago 1 è meno 99 dbm, mentre il 9 è meno 68 960 in FM meno 78, questi sono i valori che vanno sul 440 col generatore. Lì te li dà il micro, li devi trasformare perché questo il DBM me li dà. No vabbè, il decibel non lo so, io sapevo che il microvolt era più o meno così. Poi dice tutte le apparecchiature nuove le stanno facendo di valori molto più alti, addirittura anche 500 per avere un S9, perché i vecchi erano 150, quelle diciamo fino agli anni 80, poi li hanno aumentati, col tempo li stanno aumentando, forse perché i segnali stanno sempre diventando più forti. Lì come per dire devi avere 300 microvolt per avere un S9. Ogni apparecchio la sua caratura, non sono tutti uguali, se vuoi ti dico più o meno come devono essere gli ingressi, basta fare i conti e te lo dico subito, no? Però voglio dire, è un calcolo empirico, poi devi fare tutta una serie di... vabbè, è lungo il discorso, però comunque poi quello di parare il... come si chiama? Ogni apparecchio devi avere più o meno lì, ma devi avere le sue cose. No, ma io parlavo del 7000, probabilmente l'hanno fatto perché c'è anche le broadcasting, se no arriverebbero a bombardare. Già qua ci sono radio che arrivano a 950 con questa taratura qua, fate il conto se avessero avuto la taratura di 150 microvolt, sarebbe arrivato oltre il fondo scala, avrebbe crepato lo Smith. Ma non è che si inventa roba, non è inventato niente, gli Smith vanno parati in base a quello che ti dice il manual service, capito? Lui dice quello, quello vuoi dargli quel valore, ci sono tre dello smetter va parlato in tre come si dice, in tre volte, prima fai lo 0, poi fai l'S1 e poi fai l'S9, e quindi quello è l'ottari. Poi ogni apparecchio, adesso se lo guardi in mano da servizio, ti dico ogni apparecchio quanto discosta uno dall'altro. Ma tu c'avevi l'analizzatore di spettro oppure, mi pare? Sì, io ho l'analizzatore di spettro, ma questo va col generatore, lo devi tirare. No, vabbè, naturalmente, dico, se vuoi vedere se sta tirando fuori armoniche o spurie o cose del genere, sporcizia, te lo guardi quando fa le tarature o una volta che hai fatto quelle regolazioni lasci così? No, però quale tarature? Di cosa stai parlando, Roba? Io sto parlando in trasmissione, quando tu vuoi vedere se l'apparecchio sta andando bene, se la seconda armonica è attenuata come service di quel valore lì. Ma quello lo vedi con l'analizzatore di spettro, ma non lo vedi con quello lì quando fai la paratura, e se ti guardi in mano da cielo c'è tutta una serie di cose da controllare. Se l'apparecchio ha problemi, allora vai con l'analizzatore di spettro su alcune parature che devi fare, che in genere è difficile, che abbiamo toccato lì, però può capitare. Allora, se vuoi fare delle parature, ecco, metti l'analizzatore di spettro, poi se vuoi vedere le armoniche lo vedi anche come si comporta, si può fare la prova di un apparecchio. No, io sto facendo delle domande perché capitano degli apparati che sostituisci i transistor finali, per cui devi fare delle piccole tarature, perché ogni finale ha le sue caratteristiche, per cui devi cercare sempre di trovare la cosa migliore, la sistemazione migliore. Avanti a te, Riccardino. Mi sa che io vado a mangiarvi, saluto a tutti, ciao Fabrizio, ciao Gianni se sei ancora all'ascolto, Roberto, faccio in fretta, vado a mangiare che così posso, mangio in fretta così posso stare il tempo alla radio e poi faccio anche altro, mi sistemo un po' la stazione. Okay, solo l'unica cosa, Fabrizio, infatti volevo andare a vedere, lo dice che ha messo l'antenna quasi a filo di albero, a 50 cm dall'ultimo ramo dell'albero, quello è un po' così, non è molto consigliato. Pottare tutto, abbiamo comprato perché si era rotta la forbice per pottare e bisogna tagliare i rami. Ma devi salire abbastanza, tu se vuoi che con l'antenna non venga disturbata dai rami. No, tagliamo dalla base, tagliamo quei rami, quelli più grossi che danno fastidio e poi gli altri. E poi ho misurato per certezza, ho guardato esattamente 1,50 m. Diciamo, bisogna vedere se le stazionarie ne hai in abbondanza, se va tutto bene può andare bene. Loro le antenne considerano sempre queste qua 5 ottavi che hanno i radialini, sempre a mettersi a 3 metri dal punto più vicino, che sia a terra o che sia cornicione di terrazzo o tegole o albero, è sempre consigliabile rimanere almeno a 3 metri. E via da, senti, non vuoi tutti vada magna. Grazie Fabri, anche a te, sei già caricato, a Roberto e a Gianni e a tutti gli altri che in ascolto. Da che spengo un attimo, la farfalla mi sta rompendo. Vai veloce Riccardi, se no si mangiano tutto, occhio a tua sorellina che quella è molto rapida a fregarti nel piatto, dai vai con calma, mangia. Ok, buona carica comunque. Oggi l'ambiente è chiuso, poca gente, il coronavirus ha liberato tutti da quando hanno aperto le strade e la gente è ritornata a vivere. Sì, meglio così, anche io sono uscito un po' più fino, sono stanco, comunque non ho nemmeno voglia di... Però stavo guardando, prima di andare a Minna, stavo guardando un attimo se c'era qualcosa di interessante da poter collegare, che mi manca, e poi anche io stavo pensando di andarmi in New Caledonia, stavo pensando di andarmene a Minna, che sono stanco, mi sono entrato giusto per provare questo apparecchio per vedere come va, sembra bene, e adesso lo uso, secondo come va me lo sposto, mi utilizzo questo al posto del mio. Ma stai spingendo abbastanza Fabri, sei 9,50 qua. Ecco, registrato. No, è che da noi, cioè praticamente io adesso dallo Smith non ce l'ho collegato, qui sono 10 e poi va a picchi a 100 direttamente, capito? C'è una bella, quello che vedo qua, lo devo vedere che lo stima è così. Hai fatto qualche accorgimento particolare per salire così tanto da 10 a 100? La caratura un po' tirata. Ok, avanti il becco. Ehi Cappa, buonasera Roberto, buonasera Fabrizio, ben ascoltato, Franco da Sorso. Fabrizio, stai leggermente quasi strappallo. Ha abbassato poco, va meglio così fra. Sì, leggermente si è abbassata, però c'hai come amplificazione troppo forte, molto forte. Non è la solita come la tua, no? Perché qua si usano così la battaglia, l'importante è che non strappi. Sono di quelli, scusa allora, non avevo capito. Qui tutti la battaglia, vedete, tengono così, allora anche noi facciamo un po' di battaglia, poi si può usare anche un microfono normale. Ho abbassato leggermente, va un po' meglio Roberto. Adesso c'è meno di 9,50, dimmi una cosa, ma è 60 quello che hai modificato tu poi? No, questo è il 60, questo è il 60, sì vabbè qui c'è dentro, c'è, no vabbè, ma un 60 normale, questo è normale. Poi tutti, niente, poi qua c'è un disaccoppiato solo il microfono. Guarda, l'unica cosa che purtroppo per essere Pinolo, però non so se il problema dipende da me, io diciamo sentivo la voce come ieri leggermente fuori frequenza, ho proprio spostato appena e ti ho sentito meglio, devo dire questo. No, quello non credo, perché ho fatto l'apparatura dell'oscillatore e sono 36.000, 0000, che è quasi difficile trovare, perfetto, non credo che sia proprio fuori frequenza, perché non ho controllato anche la frequenza di uscita, però la frequenza dell'oscillatore è perfetta, proprio... No, ho provato adesso, sto dicendo fesserie, no, è giusto, va bene, perché sembravo, io invece ho provato adesso, ho provato a girare, no, il punto migliore è 0,0. Sì, perché quando ho fatto l'apparatura, ho messo in isonda, proprio fai la prima cosa del ricevitore, fai l'apparatura dell'oscillatore, è 36.000, è a 36.000, lo devi tarare, ed è perfetto, ma proprio in genere fai 0,0012, cosa fai proprio 0,0000, mettendogli il massimo dei decimali, che non si fa in genere, ma comunque è perfetto. Sì, vai Franco, te il mic. Capo, no, sta uscendo bene, è abbastanza buona la modulazione, è tutto quanto. Diminuito un po', però va bene la modulazione. Sì, prima stai usando quello che hai modificato? No, questo è quello che ho riparato, che sono 4,40 che ho messo a posto là. Capo, diciamo che vabbè, la tua modulazione diciamo che è già amplificata di sé, figurati se poi usi un amplificato. Quello sì, già riesco a spingerlo io il modulatore, non ci sono problemi, già lo spingo bene, però e quindi sto provando, sto guardando che cosa qui c'è. Sto provando, se va bene, se la vento va sembrava, se sacca la vento, parte tutto, era vabbè. Poi se ho il tempo ti mando una foto come uscito roba. Io una cosa, io ti dovrei chiamare per una questione. Posso chiamare in qualsiasi momento? Ma perché cosa? Dimmelo pure qua, non c'è problema, poi può chiamare, non c'è problema. Era per il motivo del mio 680, pomelo del 2-6. E va cambiato. Cappa, ne avevamo già parlato, ti ricordi? Va cambiato. Sì, già abbiamo parlato, però adesso sono 2 settimane attaccato a questi apparecchi, devo iniziare il piano casa, non ce la faccio, non voglio sentire per un bel po', poi niente, farò posso lo mettiamo, non so, devo guardare anche se c'è un, perché che problemi c'ha il Guccio? Però c'è il problema che quando giro i canali rimane sempre nello stesso canale. Ah, il commutatore allora? Sì, il MCH-VFO. Ho capito, e quello bisogna trovarlo, anche quello lo cambia da Riccardino, li ho cambiati tutti e due quelli lì. Non problemi, quelli li ho cambiati a Riccardino. Ma non ne ho fretta, Fabri, non ne ho fretta. Quando magari si accomodo. E a trovare il ricambio però. Ah, anche, figurati. Vabbè dai, se non si trova pazienza. Io non so se vanno bene quelli del 440, non lo so, per quelli del 440 vediamo quante commutazioni ci abbiamo, uno si può risaldare buono, perché io ho cambiato tutto il modulo e ne aveva due. Però il 140, sì, dal 440 è diverso. 430 volevo dire. Lo sai chi forse ce l'ha uguale? Aspetta un attimo. Ascolta, quanti canali hai in memoria? Guarda, io della memoria non soffruisco, niente, non ci so andare qua sulla memoria. Ma sei io che ho perso il segnale o sei tu, Fra? Non ho capito. Ah, eri tu, ho perso, forse ero io, cacchio, no, forse ero io che stavo facendo battimento a me stesso, perché sto facendo digitale, forse ero io che stavo facendo battimento, che soltavo basso, là. Non lo so, vabbè, se tu usi un'altra radio è ovvio. Sì, sono io, colpa mia, no, sto facendo battimento perché sto facendo digitale in 20 metri. Io voglio trovarlo su in rete, comprarlo e poi si cambia se quello roba, è a vedere anche se quello, e si cambia e via. Perché io ce l'ho la verità, ma non lo smantello, c'è un frontalino completo di 140, ma non lo smantello, capito, per togliere un commutatore. No, smantellare una radio per un commutatore non vale la pena, figurati se ne vale la pena. C'è solo questo, ma diciamo che vado bene col pomellone, diciamo con le frequenze, e gira benissimo al 100%, è solo quello, quel problema lì. Sarebbe stato più comodo farlo come il 440 con il maniglione grande, monopolone grande, che giri i canali da lì. Sì, ma io lo uso così, con il maniglione grande, con il pomellone, e giro da lì tutte le frequenze. Solo che a posto di starci 2 secondi ci metti 2 minuti. Sì, no, quello lo uso normale come sintonia continua. Però dico, siccome il 440 con il monopolone grande ti fa anche le memorie, giri le memorie, oltre che metterlo come WFO e farlo in continua, sarebbe stato più semplice come l'hanno fatto nel 440, evitando di mettere un commutatore diciamo nel di una totale. Purtroppo sono diversi questi. Io non ho mai capito la logica, l'intelligenza superiore di chi ha progettato il 140, sinceramente rimango molte volte stupito. Ma diciamo che il 140 dovrebbe essere uguale identico al 680, è uguale identico, perché il 680 l'hanno fatto diverso, non ho capito. Addirittura il 180 c'ha l'amplificatore d'antenna, mentre il 140 è negativo. No, no, ma io sto parlando la questione dei tastini, che hanno messo quei cagattini di slider che sono ridicoli, hanno un movimento talmente breve e sensibile, basta lo tocchi di appena appena sale di colpo, non ha una regolazione rotativa come per dire 440, c'ha quei potenziometri rotativi, hanno messo questi slider che sono ridicoli, non è neanche per questione di spazio, perché spazio penso che mi occupano la stessa cosa se avessero messo i potenziometri con i rotativi, invece hanno messo questi slider per il microfono, per il coso, pensiamo, per la potenza, e non parliamo CW o cose del genere, sono tasti ridicoli. Capa, sì, quelli, guarda, a dire la verità, io a volte quando tocco lo slider della potenza va tutto un colpo, o scende o va su. A volte dico, ma se è guastato, se è fatto, non ho capito. No, piano piano, giocandolo bene bene, diciamo che riesci a regolarlo. Sì, però sto dicendo, è scomodissimo, devi muovere piano piano con le unghie, se lo fai, se c'è un dito troppo grande non riesci, non hai la sensibilità, per quello sto dicendo, non capisco la logica dei progettisti, perché spazio c'era in abbondanza sotto il comando del RIT e dello Squatch, di lì ce li potevi mettere altri due cose, potenziometri, magari abbassandoli un po'. Sì, ma anche allargandolo un pochettino di più la radio, anche allargandolo un pochettino di più, ci stava tutto quanto, ci stavano i pomelloni, le pomelle per girare e fare. No, ma le dimensioni sono identiche al 440, no? Non cambia niente, 440 e 680, gli ingombri sono identici del frontale, le profondità non lo so, ma occhio sembrerebbero uguali, però sto parlando, visto da davanti, sono identiche come dimensioni. E sarebbe stato più comodo utilizzare questi potenziometri rotativi, anziché questi slider, questi cursori che sono una grande cagata. Poi non parliamo del discorso del VFO, che era più comodo avere un tratto separato, e come si chiama, come c'era il 440, e con lo stesso monopolone utilizzavo sia il VFO che le memorie. In effetti così. Vabbè, questo l'ho fatto così, l'hanno fatto. 440 è tutto diverso, ho avuto anche 440, però è tutto diverso da questo qua. Niente, però io non capisco. Quello che non capisco è che è uguale identico a 140, identico identico. Però hanno fatto lo stesso VFO. I 6 metri, hanno messo i 6 metri e basta, e poi qua c'ha un preamplificatore antenna in più, ma l'apparecchio è identico, non cambia nulla. Sì, la radio è identica, gli hanno messo solo i 6 metri e l'amplificatore antenna, non hanno messo altro in più. Se poi tu ti guardi il VHF della cable 711 e tu lo vedi attaccato al 440, dici barini uguali, quasi identici sono, tutti gli tasti, cambia qualcosina, qualche differenza, però in linea di massima è quasi uguale l'apparecchio. Vabbè, la somiglianza c'è solo e basta. No, ma i tasti, la disposizione dei tasti del Mickey Gain, del RIT, della F, il regolatore di AF e RF, sono uguali, cambia soltanto un manopolino, gli hanno fatto quello del RIT un pochettino più grande, però se tu lo guardi i tasti, dove c'è la tastiera per i modi eccetera eccetera di emissione, è tutto preciso. Guarda, a me ha detto una cosa, Robè, mi dispiace una cosa solo. Questo quando l'ho comprato, diciamo che è una radio che la usavano da anni e anni e anni, solo in ricezione la usavo, non era stata mai usata in trasmissione, non era stata mai usata, e poi l'ho presa io, perché naturalmente ci ho anche trasmesso. No, l'unico problema che ho incontrato all'inizio, che avevo problemi neanche dei tasti, poi gli ho dato un po' di spray per i contatti, cose così, gli ho dato, e tutto funziona bene adesso, i tassi adesso sono una meraviglia. L'unica cosa che non funziona bene è il WFO, l'MCH WFO. Sì, quello dei canali, la memoria dei canali che ha memorizzato. C'ha 23 canali, 23 memorie mi sembra, se non sbaglio, i 680. Guarda, di verità non lo so. Non lo so perché non ho neanche guardato la...